Buonasera e benvenuti a bordo. Si invitano i compagni passeggeri ad accelerare le procedure di imbarco e a riporre i propri effetti personali in luogo sicuro. Si invitano a prendere comodamente posto e ad allacciare le cinture. Chiudete gli occhi, collegatevi con il centro dell'universo e state tranquilli. Le uscite di sicurezza sono allocate alle vostre spalle. Conducono il viaggio i Rasna e lo spettacolo ha inizio. Ai ai. Purtroppo i motori non fanno fatica a scaldarsi, abbiamo alcuni inconvenienti tecnici. Vi invitiamo ugualmente a trovare una situazione comoda e, come è stato detto in alcuni viaggi che avete fatto, ma assolutamente non paragonabili a quello che state per affrontare, le dotazioni sono tutte intorno a voi, alzate le mani, arriva ossigeno. Guardate di fronte a voi, troverete sacchetti per il vomito in caso la sensazione di spaesamento dovuta al viaggio in corso dovrebbe causarvi dei fastidi allo stomaco. Nel caso invece di ammaraggio, l'attrezzatura diciamo salvagente è collocata sotto il sedile. Si prega di alzare i sedili. I will find myself. I can go to the farthest places. Even there I will find myself. Ishkinde yazeno azende yeskinush kulio bazene izedeshkinush kulio bazede idino mazenush kulio yeya kulio bazede ile bazenush kulio bazile ile yezinush kulio bazede didino nezinush kulio uo uo uo. Looking for something else, they lost the track and forgot to look for their integrity. Naked man, a vigilant, here I am, I'm found myself and all the rest. Looking for something else, they lost the track and forgot to look for their integrity. Naked man on a vigilant, here I am, I found myself and all the rest. Hey. Dimmi quel che vedo, dimmi com'è possibile che sia così. Posso andare in qualunque luogo, una volta lì troverò me stesso. Cercando qualcosa, hanno perduto la strada e si sono scordati la loro integrità. Uomo nudo, in una terra vergine, ho ritrovato me stesso e quello di cui avevo bisogno. Il primo tratto del nostro viaggio era a Telmi, la rotta degli schiavi, ed è scesi dal galeon fatale che torniamo con gli occhi alle origini. alle radici che ci legano alla terra madre, al sangue che scorre profondo nelle radici della terra e dei primi passi dell'umanità, a ciò che ci collega con quanto di più profondo è la nostra essenza di esseri umani, uomini e donne che hanno proteso la fronte verso il cielo e hanno iniziato a guardarsi intorno, immaginando un mondo migliore e diverso, e che mai si avrebbero immaginato di essere un giorno caricati su una nave in catene che li avrebbe portato ad una vita di stenti e di schiavitù. Il primo passo del nostro tragitto è stato con gli schiavi, sulle loro navi, con le loro sofferenze, al ritmo delle loro catene. E adesso possiamo volgere gli occhi indietro alle radici che furono e che mai morirono. Io Iesa tua Iesu li mo chi li di dia dia Dio va di evo i le vaso va chi culi mangio fa dell'imania de culi mangio e culi mangio fa e culi mangio va di va de dia. Manjoba, le radici di Madre Africa. Ile Galileo, ile Galilee di Vodie, ia de mio, ule culiliva, ciole le bade dio, gole die dalilia, de culi mancio fa, e culi mancio, de culi mancio, culi mancio fa, de culi mancio fa, e di vai. Mancio fa le cala li vari dio cali ova e de culi mancio fa le cala li vadio. Spiantati dalle loro terre sono stati costretti a ritrovare le loro radici in un continente nel quale erano mai stati. Ognuno di noi, lavoratori e lavoratrici della terra, siamo una classe di migranti, obbligati a ritrovare in ogni momento e in ogni luogo le radici di fratellanza che ci collegano all'umanità intera. È nostro piacere informarvi che la velocità di crociera è di circa 6 ottavi, la temperatura è ottimale, il cielo è terso e contiamo di approdare all'arrivo del nostro viaggio entro pochi minuti. In questo momento stiamo sorvolando l'Oceano Atlantico. Texas. Indian, Texas. Stiamo atterrando come indiani nel Texas del dollaro, delle pistole e del petrolio. I viaggiatori che hanno avuto il piacere di attraversare con noi lo spazio dimensionale che abbiamo appena trascorso avranno il piacere di scoprire che in questa nuova dimensione nella quale vi abbiamo proiettati siete dotati di nuovi dispositivi. Attraverso il viaggio nel cuore della coscienza dell'umanità e delle sue aspirazioni, siete ora in condizione non solo di essere spettatori, ma di diventare agenti rivoluzionari per il cambiamento della vostra vita e del mondo che vi circonda. Quando scenderete troverete tutte quante le dotazioni necessarie a realizzare ogni sogno, programma, aspettativa che ci permetta di cambiare in maniera radicale, profonda e definitiva il mondo nel quale siamo nati e cresciuti. L'apertura di una nuova era, di un nuovo mondo e di un orizzonte nuovo è alla portata di mano. Non dovrete fare altro che allungare la mano e prendere ciò che è vostro. E la cosa bella è che è un'azione collettiva e quindi vi auguriamo il migliore soggiorno in questa nuova dimensione nella quale l'agire collettivo sarà la trasformazione collettiva dell'esistente. Indian, Texas. Grazie a tutti. È nostro estremo piacere presentare la ciurma e tu offri chitarra e voce. Davide Latini al basso. Marco Fabrizi alla batteria. I pezzi sono tutti originali di Edu Nofri, il testo di Telmi è di Ilaria Sadun, voce narrante Loto Montina. Vi auguriamo una buona permanenza in questa nuova dimensione e tanti auguri a Radio Onda Rossa. Grazie.